Capitolo 7. La festa della luna. Ottobre 1949. Mark ed io avevamo molti amici, e fra questi la luna. La guardavamo spesso e il pensiero che la sua pensosa bramosia della terra sarebbe rimasta per sempre insoddisfatta ci dava a volte una certa tristezza. La notte, seduti o sdraiati sulla nostra pietra, ci sentivamo quasi denudati dalla sua luce fredda, coscienti dell'irrequietezza dei nostri desideri e dell'ironia del perpetuo isolamento umano. Ci eravamo soprannominati les dévots de la lune, amabili folli presi da pazzia lunare, discepoli ferventi, docili prigionieri senza catene, che volontariamente si arrendevano all'incanto dell'astro. In Europa si sono avuti santi che si sono definiti folli di Dio e che hanno portato la livrea dell'estasi trionfante. In Cina poeti si sono innamorati della luna e uno di essi ha perduto la vita nel tentativo di abbracciarla nelle acque di un lago. Quanto a noi, ci era assai penoso doverci rinchiudere in case le cui tende accuratamente tirate escludevano la notte abitata dalla luna. Una volta a Sumatra, mi narrò Mark, viaggiavo solo con una guida e due elefanti, dormendo nelle ore calde del giorno e muovendomi di notte. C'era la luna, dapprima simile a un'elegante scimitarra che occhieggiava Gaia attraverso una sciarpa di stelle, poi cerea, a perfetto semicerchio, e infine rotonda, piena di fiori e di freddi uccelli lunari. La notte di cui parlo, essa stava pesa solitaria nel cielo, grande opale di fuoco, dominando il silenzio della terra. I fianchi dell'elefante, davanti al mio, erano incrostati e lavati d'argento. Le sue gambe affondavano nell'erba alta come un uomo, azzurrata di luna, e il bestione avanzava attraverso la pianura fosforescente col suo passo indolente e ondeggiante. Ad eccezione del fruscio dell'erba nella scia degli elefanti, nulla turbava la purezza del chiarore di luna e il silenzio, ma improvvisamente l'aria fu lacerata da un rauco latrato. Era la mia guida che non riusciva a sopportare oltre il traballio della sua montatura. Con quanta saggezza e Dio sa sempre darci la piccola pecca, il lieve oltraggio alla perfezione che altrimenti risulterebbe insopportabile e soffocante alla nostra semplice umanità. La luna di autunno mi affascinava, ma Mark sosteneva che quella di primavera fosse migliore e citava molti poeti cinesi in appoggio al suo argomento. La giovane luna di primavera, dalle guance incavate, snella e un po' affaticata all'inizio della tiepida notte, con le nuvole di piuma che le fanno da baldacchino e la cima della collina liscia come giada bianca. Il lucente viaggio di una luna d'estate, giostrante nella calma del cielo, profonda quanto l'oceano. Ma io trovavo la luna di primavera volubile ed errabonda come un amoretto di adolescenti. La sua luce era troppo trasparente e dall'ordito troppo sottile per poter possedere il profumo della completa fioritura. Quanto alla luna d'estate, mi sembrava troppo nervosa e non sufficientemente contemplativa, come una donna apparentemente energica ed efficiente che mascheri la sua incertezza dietro a una barriera di sex appeal. Secondo me, soltanto la luna autunnale era una luna d'amore. Anche in Inghilterra c'è la luna. Ricordo una notte di ottobre in tempo di guerra a Londra. Le tende alle finestre erano tirate con cura per via dell'oscuramento ed io stavo leggendo a letto. «Su via, alzati!» mi gridò mio marito rientrando in casa. «C'è una meravigliosa luna e sarebbe peccato non goderne!» Così uscimmo in strada e, attraversato lo Strand, ci fermammo al ponte di Waterloo a guardare la luna, rotonda e lucente, tenendoci per mano. Sotto di noi il Tamigi sembrava d'argento massiccio, ma a Londra la luna è più piccola che a Hong Kong e a Pechino è addirittura enorme. Come sei poco scientifica, protestò Mark. La luna ha ovunque la stessa grandezza. Oh, no, no, no, non è vero. Enorme è la prima luna color champagne che sorge dalla Terra e poco per volta perde colore e sostanza, purificandosi nel corso della sua scalata al cielo. In certi luoghi la luna è più grande e mi rifiutai di lasciarmi convincere del contrario, nonostante le spiegazioni scientifiche di Mark corredate da una lunga sequela di cifre. Hai ragione, mi scrisse Mark da Singapore la primavera seguente. Qui la luna è più piccola che a Hong Kong e ora ti credo quando dici che a Pechino è più grande che non a Londra e a Parigi. E molto più tardi, da Taichung in Corea, mi scrisse ancora: questa notte la luna, col suo seguito di nuvole, mi è apparsa più grande e più lucente di quanto l'avessi mai vista. Salivamo fino al Peak per ammirare la luna, pesante e di un opaco color arancione, rimanendo sotto gli alberi per rapire la sua ultima lucentezza aggrovigliata fra il pizzo nero del fogliame. Compilammo persino un'antologia della luna ed essa rimase fresca e intatta anche al contatto delle parole, rinnovandosi in ogni espressione trita, in ogni invocazione stantia, nella stessa ripetizione del suo nome. Quando pioveva sentivamo molto la sua mancanza, parlavamo di lei ai nostri amici e il nostro giudizio su di loro dipendeva dalla maniera con cui ci ascoltavano. Peccato, esclamava Mark rivolgendosi a me, questo individuo non ha alcuna sensibilità lunare. E naturalmente giudicavamo deplorevole tale mancanza. Tuttavia, non abbiamo mai saputo che cosa pensassero o dicessero gli amici della nostra infatuazione lunare. Bene, eravamo alla festa della luna, quindicesimo giorno dell'ottavo mese, festival della mietitura e anche mio compleanno, secondo il calendario cinese. Festeggeremo la luna e te, propose Mark. Berremo quel vino Mao Tai che hai portato dalla Cina in bottiglie di pietra. E guardandoti mi sentirò come sempre girare deliziosamente la testa. Così, con alcuni amici, combinammo di andare a vedere la luna sull'acqua in quel villaggio di pescatori che gli inglesi chiamano tanto prosaicamente Aberdeen. In un braccio di mare, tra l'isola di Hong Kong e una minuscola isoletta chiamata Lingua d'Anitra, aggrappato lungo la strada automobilistica, sorge appunto questo villaggio abitato esclusivamente da pescatori. Le coste dell'isola e i nuovi territori sulla riva di fronte sono punteggiati dalle abitazioni, dai templi e dalle barche del contadino del mare, nettamente diviso dal contadino della terra, da usanze e riti religiosi a lui particolari. Dalle colline, l'azzurra e stretta baia di Aberdeen, affollata di giunche, offre una visione, deliziosa. Le donne barcaiole sono forti e coraggiose e fra i bambini, che purtroppo vengono travolti ogni giorno dagli autisti di Hong Kong, molti appartengono ai pescatori di Aberdeen. Non avvezzi alla pericolosa terra, essi giocano nell'incessante fluire di automobili e come sul sicuro fondo piatto delle loro giunche. Nel mezzo della piccola baia sono allineati ristoranti galleggianti di ogni tipo, lussuosi e popolari, dove i turisti e i ricchi spendono in un solo pasto una somma che sarebbe sufficiente a nutrire per un mese un'intera famiglia di pescatori. Per mezzo di John Tam invitai anche Ernst Watts, che desideravo vedere insieme a Mark. Watts conferiva a ben pochi l'onore della sua compagnia, ma John Tam era fra questi privilegiati. Venne anche padre Low, l'alto gesuita che conosceva così bene il cinese, e portò con sé un amico, un certo dottor Goh, occhialuto psicologo cinese con due dei suoi cinque bambini. Maya Wong, alla quale io volevo bene più che a una sorella, venne con la figlia più giovane, le altre due essendo ritornate a scuola a Shanghai, e con un'amica studentessa appena giunta dalla Cina di nome Aileen Cheng. Ho sempre considerato usanza molto simpatica di noi cinesi quella di portare a una determinata riunione i propri amici e soprattutto i propri figli, perché non c'è piacere maggiore di quello di far cosa grata ai nostri amici e nessuna festa può dirsi completa senza la gioia dei bambini. Mark invitò François Perrin, un giovane francese smilzo, possessore di una enorme Cadillac. Io portai mia figlia May, che a sua volta aveva invitato la sua amica Ginger, maggiore di lei di un anno, e così, in discreta compagnia, ci avviammo verso Aberdeen, al crepuscolo. Nella Cadillac trovammo posto in sei, con quattro bambini accomodati alla meglio sulle nostre ginocchia. Mark, John Tam, Ernst Watts e Ginger seguivano nella macchina di Watts. Le navi Sul mare cominciavano ad accendere le luci e il cielo era ancora pallido, sembrava vuoto. Il cielo attende la luna come noi, osservò François. Passammo davanti all'università, con la sua confusione di edifici disseminati per la collina, lungo Pokfulum Road, oltre l'imponente Mount Davis, dai fianchi chiazzati con le tombe a semicerchio del cimitero cinese, oltre il profondo avvallamento che celava il Coffin Hospital e il Lebrosario, oltre il promontorio che un tempo era stato una collina e che ora centinaia di piedi di donne avevano spianato, oltre la Casa della Saggezza e l'ospedale con la sua fila di verande illuminate, oltre la latteria, oltre gli agglomerati di capanne dei profughi. E alla svolta della strada ci apparve la luna, che emergeva dalla cima di una collina ammantata in una nuvola frange d'oro. François e May, che gli stava sulle ginocchia, mandarono entrambi un grido di gioia. «Guarda, guarda!» disse May, stendendo la mano quasi a voler afferrare la luna, come aveva fatto una volta col sole perché era rosa come il suo piattino ed ella non aveva che 4 anni. E ora, a 9 anni, ripeteva lo stesso gesto, massiccio e arrogante, il solitario despota ambrato sedeva sulla cima della collina buia. Poi la nuvola ebbe la meglio su di lui. Uscirà ancora. Dall'oscura profondità del sedile posteriore, la voce di padre Lowe parve quella di un profeta. Giunti ad Aberdeen, lasciamo le macchine in un punto di sosta vietata. «Mais ça ne fait rien!» disse François. «C'est fait aujourd'hui!» Una folla di barcaiole in pantaloni e grembiuli neri e rotondi, cappelli di paglia intrecciata, ci sorse improvvisamente intorno, premendo e pigiandosi. Le più audaci ci presero addirittura per i vestiti per farci salire sui loro sampan e portarci ai barconi e ristoranti distanti un centinaio di metri. Scorgendo Mark e gli altri, andammo al loro incontro, scrollandoci continuamente di dosso con le mani e con i ventagli i corpi umani che premevano su di noi. Una robusta barcaiola dalle guance rosse ci si piantò dinanzi, tenendo a bada tutte le altre. La seguivano al suo sampan e sedemmo sui sedili di vimini. Sotto alla stuoia rotonda che faceva da tetto alla barca pendevano lampioncini di carta colorata e lanterne di fiori di loto in onore della festa della luna. Una bambinetta di 12 anni, assai più piccola di May, ed il cui cereo pallore contrastava col violento colorito materno, aiutava a pagaiare. Quello della donna era un movimento davvero affascinante. L'unico remo tenuto obliquamente si agitava nell'acqua ed ella lo faceva girare nella mano, dondolandosi avanti e indietro e poggiando alternativamente il suo peso sul calcagno e sulla pianta del piede. Esercizio difficilissimo. Eppure il remo sembrava quasi muoversi da solo, senza alcuno sforzo apparente. Oltre la breve distesa di ebano lucente brillavano le sgargianti insegne al neon dei ristoranti in caratteri cinesi, alti un piede e larghi in proporzione, rossi, blu e verdi. I ristoranti risuonavano di voci umane, dei colpi secchi delle tavolette di Mahjong, gioco tradizionale in tutte le feste e celebrazioni, funerali inclusi. Ovunque a Hong Kong si sente giocare a Mahjong, e nel quartiere dei coolies dell'ospedale il secco rumore delle tavolette continua a lungo dopo che ogni altro rumore è cessato. Ma adesso, in Cina, giocare a Mahjong è considerato reato, disse Aileen Cheng, giunta da Hong Kong da soli 2 giorni. È segno di pigrizia e di ozio. Alcuni miei amici che lo giocano furono mandati a scopare le strade per una settimana. È un vizio del capitalismo e, in fondo, non si può dire che come punto di vista sia sbagliato, soggiunse in tono moraleggiante, poiché il gioco è per noi pericoloso quanto l'alcol per gli stranieri. Un giovanotto elegante e impomatato, direttore del ristorante che avevamo scelto, ci accolse ai piedi della scaletta, prodigandosi in sorrisi smaglianti quanto i suoi capelli. François, John ed io ci dirigemmo verso la dispensa e la cucina. Attraccate sul lato del barcone che dava sul mare aperto, mentre gli altri si impegnavano a cercare un tavolo da dove fosse possibile vedere la luna. Quattro enormi casse di legno, dalle pareti bucate per lasciare entrare l'acqua di mare, galleggiavano a poppa, erano i serbatoi dei pesci che avremmo consumato a cena. Ad angolo retto col barcone stava la cucina, una piattaforma galleggiante, illuminata da lampade controvento e popolata dai bracieri, da fornelli grandi e piccoli e da un esercito di cuochi. Ai bordi della piattaforma erano legati grossi cesti rotondi che scendevano fino a tuffarsi nell'acqua e contenevano scampi, gamberi e aragoste. Un gigante, simile a un grasso dio marino, solcava l'acqua su di una minuscola barchetta, pescando nel serbatoio dei pesci con una piccola rete da farfalle. Seguendo le nostre indicazioni, prese alcuni garuba chiazzati di rosso, parecchi sgombri iridescenti rigati di azzurro, due pomfree argentei e un labbro color verde erba, e li gettò ad uno sulla piattaforma, dove un ragazzetto dal labbro leporino li raccolse abilmente in un'altra rete, gettandoli poi a sua volta al primo cuoco della fila. Questi stordì il pesce contro una grande asse rotonda, vera e propria fetta di un tronco d'albero di canfora, e lo passò al secondo cuoco che gli tagliò il ventre con un colpo secco del coltello affilato, facendone uscire l'interiora prima di passarlo a sua volta al terzo cuoco. E così i nostri pesci percorsero tutta la lunga fila di cucinieri, fino ad emergere su di un piatto di porcellana fiori con zenzero, spezie e salsa squisiti, deliziosi, e mantenendo ancora negli occhi rotondi quell'espressione di appassionata e muta sorpresa che ogni pesce porta alla sua destinazione finale sulla mensa cinese. Il ragazzo dal labbro leporino cacciò un urlo e tutti ci volgemmo a guardare l'enorme aragosta che teneva in mano in attesa del nostro beneplacito, con il ventre giallo rivolto verso di noi e le simmetriche proiezioni delle zampe simili a un candelabro a bracci. Una violenta convulsione scosse il grosso crostaceo e le zampe si unirono come in una muta supplica, ma la nostra approvazione fu pronta e anch'esso venne gettato alla fila di cuochi per venire cucinato con peperone rosso e salsa dolce. Lo stesso destino subirono anche i gamberi chiazzati d'azzurro e d'oro e gli scampi di un grigio madreperlaceo. Allora, soddisfatti della cena che avevamo ordinata, andammo a raggiungere gli altri, grandi e piccini, che seduti intorno a un tavolo rotondo stavano chiacchierando e sventagliandosi, masticando semi di melone e bevendo tè verde. Si dice che il cielo faccia nascere l'amicizia anche tra i barbari, ma in una compagnia che ci è simpatica, in cui non esistono discordanze di carattere, capita talvolta di assaporare la dolcezza di una comprensione più sottile, di godere dell'incanto di una dolce atmosfera un poco folle. Avevo ritenuto questo genere di amicizia esclusivamente cinese, finché Mark non mi aveva fatto notare che anche i greci ne possedevano il segreto. L'amicizia non può essere esclusiva o egoistica, come una luce in un giardino che illumina tanti più alberi e fiori quanto più è brillante. Così l'essenza dell'amicizia è costituita dalla scoperta di soggetti in reciproca armonia, dall'evocazione di deliziose fantasie e di nobili pensieri nella mente altrui, quanto sarebbe povero e scialbo un mondo privo di spiriti affini che possano condividere il sogno dell'accordo miracoloso, perseguendo verità splendide e illusorie. Quale delizia sentire l'orgasmo mentale, l'acuto attimo incandescente che esplode in noi, al pari di un fulmine, alla vista, al contatto, al riconoscimento della bellezza.